Nella loro carriera quasi ventennali, Camillas hanno pubblicato dischi come alcune delle etichette più attive del sottosuolo musicale italiano. Il primo nel 2007, intitolato Everybody in the Palco, e persino un libro nel 2015 con la casa editrice Il Saggiatore, La rivolta dello zuccherificio. Hanno firmato sigle come quella di Colorado e tante altre, mentre Il gioco della palla era finita nel programma della Jalapas Band. E appunto loro hanno portato belle canzoni che ci fanno sempre ballare. Tra l'altro ovviamente saranno anche loro sul palco del Sunair Festival insieme, come vi abbiamo raccontato ieri intervistando anche il duo Bucolico. Insieme saranno i Superman, che sono appunto anche una risposta croccante alla fragilità dell'esistenza. Ovviamente, come anche faremo sul palco di Modena, ci sarà un grandissimo omaggio a Zagor Camillas, che è stato sicuramente un artista importantissimo, e come anche ieri in realtà il duo Bucolico ce ne ha parlato super bene. Ma io sono molto felice oggi di aver in collegamento telefonico con noi Vittorio, benvenuto. Ciao, benvenuto io. Benvenuto tu. Grazie del benvenuto. Beh, era benvenuti a tutti, ma non ho capito la dimensione degli spazi radiofonici. Guarda, adesso rientro dentro la... Se vuoi possiamo... Dimmi. Rifacciamo da capo. Ok, dai, rifacciamo. Tanto, tutti, esatto, non se ne accorge nessuno. E quindi diamo il benvenuto a Vittorio dei Camillas. Benvenuto. Grazie mille. Grazie, sono felice di essere qui con te, con voi che ci state ascoltando da tutte le città da capo. Beh, guarda, se vuoi effettivamente possiamo fare l'intro quante volte vuoi, tanto siamo in diretta, ma nessuno si accorgerà che siamo in diretta. Sono le 16:13, io sono felicissima di avere Vittorio al telefono con me. Beh, finalmente si torna sul palco, il Sunair Festival. Sì, è stata una situazione molto particolare, questa del Sunair, mai vissuta in realtà in questa forma così particolare, determinato un po' dalle condizioni esterne ma anche dal progetto stesso, perché siamo stati quattro cinque giorni a Riolo Terme assieme poi ai ragazzi del duo Bucolico, e avevamo a disposizione una stanza rotonda del castello dove praticamente potevamo suonare tutto il giorno. Cioè, ci hanno detto proprio: venite qui e suonate, che per tanti giorni, che è una cosa rara, di solito sei sempre un po' ristretto. E quindi ci siamo divertiti a esplorare un sacco di suoni, di cantoni, così alla fine ne sono venute fuori, ne abbiamo registrate quattro, che sono quelle che si vedranno poi al Sunair 19 venerdì. Ma tu sei emiliano romagnolo? No, sono pesarese, però i pesaresi, ecco, Parlano un po' così. No, perché è Sunair, è suonare. Sunair. È Sunair. Sì. E io cosa ho detto? Sunair. Sunair, perché in realtà anche noi, mentre appunto lo registravamo, eravamo indecisi se era Sunair o Sunair, però è proprio Sunair. No, hai ragione. Sunair. È Sunair. Sì, è dialetto romagnolo. Sì, è vero, Sunair. Pensa che abbiamo fatto una gara a chi sbagliava più volte a dire Sunair o Sunair, e chi perdeva pagava da bere, e io ho vinto, quindi ormai ho proprio memorizzato proprio bene che è Sunair, anche se non sono né emiliana né romagnola, però ormai sono di adozione, e quindi Sunair, suonate. Sì, ne avevamo parlato anche, sì, quando eravamo là, avevamo notato questa differenza, perché noi a Pesaro diciamo Sunè. Ok. Si chiamerebbe Sunè con l'accento, no? Con questo vezzo così. Invece i romagnoli tengono questo Sunair. Cioè, esatto. Si attaccano alla terra, loro sono più terra, si attaccano Sunair, scendono giù, no? La vanga, stan, esatto. E scende giù. E noi siamo assolutamente vacui e inconsistenti, quindi Sunè, andiamo così nello spazio del nulla, così. I pesaresi. Comunque va bene. È stata un'esperienza molto bella, li ho ringraziati anche personalmente, perché poi erano con noi tutti i ragazzi dell'Arci che girondolavano lì, è una zona pienissima di Arci, ogni paesino, ogni angolo ha un Arci, e quindi è stata proprio un'accoglienza, mangiavamo benissimo, ci cucinavano appositamente per noi, quindi... Beh, anche mangiare bene è sicuramente importante. Tra l'altro abbiamo anche appena trasmesso la canzone del Pan, abbiamo anche ascoltato l'Anca, tra pochissimo invece ci ascolteremo Bisonte e anche Luccicare, così all'interno del nostro Fujiko Factory le abbiamo messe quelle che ci fanno più ballare. Sì, sì. Però appunto state producendo nuove canzoni come Superman. Sì, Superman sono un gruppo che non fa né canzoni tipo i Camillas né canzoni tipo il duo Bucolico, ma fa le canzoni di Superman, quindi è un'esplorazione anche, cioè dei tentativi, no, per allontanarsi anche dalle abitudini, dai gusti automatici, no, le cose automatiche che ti vengono, e quando ti mescoli che non sai bene cosa succede vengono fuori cose nuove, e infatti i quattro pezzi sentirete sono un po' diversi, insomma, dalle cose solite, sempre molto energici, comunque felici. Beh, abbastanza. Questa è la cosa più importante, che siano sì. energici, anche perché appunto ci manca sì. la musica dal vivo, ci manca ballare, a me mancano proprio i concerti, ci mancano tanto, ed educo anche a voi comunque suonare con un pubblico davanti. Sì, sì, infatti noi lì, come si vedrà nel video, suoniamo in cerchio, cioè essendo una stanza tonda ci siamo messi, quindi noi ci guardavamo sempre rispetto al palco. È una situazione strana, che non suoni mai in cerchio, sei sempre rivolto verso il pubblico verso di te, quindi questa relazione continua di sguardi, occhiate, calore, tutte le mille cose che mancano da tanto tempo in realtà, perché l'estate scorsa i concerti ci sono stati, ma il pubblico stava a sedere e quindi c'era anche una situazione nuova, questa massa di persone sedute che ti guarda equidistante. Con la mascherina. Con la mascherina, sì, sì, tutti belli precisi, nessuno che si alzava. Ma no, è stata... Che cose sperimentate, insomma, si poteva fare a meno. Però pian piano vedi che le attraverso un po' tutte, insomma, non... ci si arriva, insomma, alla soluzione, pian piano, ne sono convinto. Esattamente, le attraversiamo così, nella speranza però che prestissimo si possa finalmente tornare a pogare, si possa tornare a sudare sotto un palco con le transenne tra le costole, sì. insomma, è la speranza. Infatti anche noi all'interno del nostro Fujiko Factory parliamo spessissimo ovviamente di questa situazione, e appunto è bello però dar voce soprattutto agli artisti, perché noi diciamo lo viviamo da fan a cui manca stare sotto un palco, però immagino voi quanto vi possa mancare stare sopra un palco. Sì, è tutto, perché poi in realtà il suonare, poi anche per noi suonare con altri gruppi in locali assieme a altri gruppi, festival, è anche un sistema proprio di relazioni, un meccanismo gigante che manca, che ti porta a essere in contatto con gli altri, cioè non ci si vede più fra gruppi, non ci si vede. Infatti questa cosa del duo bucolico era nata anche per costringerci a vederci, cioè facciamo qualcosa che ci costringa a vederci, perché se no ci si è anche un po' persi fra tutti, non ci si vede più nelle situazioni della musica, ecco, anche quello. E quindi insomma un modo per collaborare insieme, un bellissimo modo sì. per stare insieme e fare bella musica. Io in questi giorni vi sto man mano conoscendo e intervistando tutti voi partecipanti al Sunair, e in più persone avete detto proprio che insomma siete stati in questo castello, siete stati per giorni sì. insieme, e questo sicuramente poi è quella cosa bella che è il lavorare insieme. Tra l'altro poco fa ero in diretta con Rachele, l'altra ragazza caporedattrice della Culturale, anche noi dicevamo, noi manca arrivare in radio e essere qua sole, perché comunque senza comunque gli altri collaboratori, gli altri redattori, manca quella anche solo la chiacchiera, che però poi diventa uno spunto per qualcosa di nuovo. Certo, quindi in questo periodo manca tanto questo, e quindi sicuramente l'Arci vi ha dato la possibilità di creare qualcosa di molto bello. Sì, sì, infatti sono contenta, anch'io non ho visto come sarà, quindi venerdì lo guarderò, perché non abbiamo visto alla fine l'esito finale a livello video come sarà venuto il concerto, ma sono curioso, quindi poi dopo speriamo che quest'estate, quando si riapriranno le varie possibilità, noi con Superman torneremo a suonare poi dal vivo, perché lo scopo era anche quello, insomma, suonare assieme nei concerti veri, ecco. E noi non vediamo l'ora di sentirvi finalmente live dal vero, come giustamente dicevi tu, ma dal intanto vero, sì, sì. noi rinnoviamo l'invito. Che non è dal vivo, è dal vero. Esatto, perché dal vero, proprio potersi toccare, guardare, e magari senza mascherina, nella speranza che si possa fare prestissimo, ma intanto appunto rinnoviamo l'invito a venerdì, voi sarete il 19 marzo, tra l'altro i primissimi sì. aprirete la seconda serata di questo Sunair Festival. Io ti ringrazio per essere stato con noi, ma ci salutiamo Prego. Ancora alzando il volume e ascoltando Bisonte. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Non sono una giraffa. Non sono una civetta. Non sono. Sono un'aragosta. sono il tuo padrone. Ehi tu, vieni qua! È il padrone del tuo padrone. Ehi tu, sei sordo, gli hai detto di venire qua? Non sono un asinello. Non sono un pipistrello. Non sono una lumaca. Nemmeno